Sura 85esima. Al-Buruj. Le costellazioni. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per il cielo dalle costellazioni, per il giorno promesso, per il testimone e la sua testimonianza. Sia maledetta la gente del fossato, dal fuoco incessantemente attizzato, quando se ne stavano seduti accanto, testimoni di quel che facevano i credenti. E non li tormentavano che per aver creduto in Allah, il potente, il degno di lode, colui al quale appartiene la sovranità dei cieli e della terra. Allah è testimone di ogni cosa. In verità, coloro che perseguitano i credenti e le credenti e poi non se ne pentono, avranno il castigo dell'inferno e il castigo dell'incendio. In verità, coloro che credono e compiono il bene avranno i giardini dove scorrono i ruscelli. Questo è il grande successo. La risposta del tuo Signore è severa. Invero, Egli è colui che inizia e reitera. Egli è il perdonatore, l'amorevole, il Signore del trono glorioso, colui che fa tutto ciò che vuole. Non ti è giunta la storia delle armate di Faraone e dei Thamud? I miscredenti continuano invece a tacciare di menzogna, nonostante che Allah sia dietro di loro e li circondi. Questo è invece un Corano glorioso, impresso su di una tavola protetta.